Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Questa mattina vorrei verificare un dato che mi dice che è in crescita il numero degli italiani che si affittano una stanza dentro casa. Poi entreremo in merito al come, il dove, il quando abbiamo raggiunto questa sollecitazione. Però vorrei fare una considerazione. Affittare una stanza dentro casa è una pratica che naturalmente fa parte di una economia di recupero di risorse. Normalmente una casa viene fatta per abitarci con la famiglia o abitarci da solo. Affittare una stanza significa aver bisogno di un ulteriore introito. Non che questo sia un'attività vergognosa, ma è indicativo comunque di uno stato generale. Ricordo che era molto in voga negli anni del primo dopoguerra, tutta la commedia italiana è fatta da poveri ma belli, ma tutti i vari film con Aldo Fabrizi, ci fosse Sansonna poi mi conforterebbe, con Totò, con Peppino, di famiglie in cui c'era l'inquilino che pagava la pigione, era sempre un signore molto ingombrante che girava in vestaglia, ma addirittura in Poveri ma belli c'è questa sorta di alternanza, si affitta un posto letto a una persona che di mestiere fa la guardia notturna, che rientra la mattina, e la mattina quello va a dormire e si alza un altro che invece a quell'ora va a lavorare, quindi ottimizza il posto letto. Affittare un posto letto in casa è una pratica che richiede una certa sopportazione, perché in fondo si richiede una promiscuità di vita con persone che ci sono totalmente strane. Bisogna dare l'uso del bagno, a volte l'uso della cucina, bisogna condividere la propria intimità con altre persone. Quali potrebbero essere le fattispecie per cui una persona oggi affitta una stanza in casa propria, il sancta sanctorum della propria intimità? Faccio alcune ipotesi che derivano dall'averlo domandato questa mattina su Facebook ai miei amici online e mi hanno subito risposto. Molti mi parlano di attività di ristrutturazione che sono molto onerose. Una casa ristrutturata richiede un grosso esborso, poi una volta ristrutturata ci si rende conto che bisogna pagare i lavori di ristrutturazione, quindi uno fa un conto, dice vabbè, per un certo periodo affittiamo una stanza e quindi recuperiamo questa spesa extra. La stessa cosa vale per un mutuo, si compra una casa, c'è un mutuo con la rata piuttosto onerosa e alla fine per pagare il mutuo si affitta una stanza, e si fa un conto, per 5 anni affittiamo una stanza, ci paghiamo parte del mutuo, poi tranquillamente stiamo a casa nostra. Altre circostanze sono coppie che si separano, mi hanno scritto molte persone separate, una volta separato ho affittato una stanza di casa e poi inizia tutta una serie di coloriti racconti di quello che può accadere con un estraneo dentro casa, una persona che non si è scelta, una persona che poi mostra alcuni lati delle proprie abitudini quotidiane, il proprio carattere, che mostrano difficoltà poi di convivenza. Beh, 800 24 00 24, entriamo nel vivo della vicenda. Vi è mai capitato di avere la tentazione di affittare una stanza di casa vostra? L'avete fatto? Quali sono stati i risultati? Vi risulta che questa sia un'attività che comincia a essere una necessità per molte famiglie? 800 24 00 24. Annuncio di Martin e Giulia, Roma. Ciao, affittiamo una stanza singola a Porta Furba, adiacente alla metro A. L'appartamento è bellissimo e molto grande, ha doppi servizi, camera per gli ospiti, riscaldamento autonomo, aria condizionata e internet wifi. Cerchiamo una persona simpatica che abbia voglia di dividere la casa con noi. Io poi vengo da una città universitaria. Gli studenti sono una importante fetta di probabili inquilini perché avesse stanze da affittare. nella Perugia dei miei anni università, non so se ancora è così, esisteva una sotteconomia sommersa, nascostissima, tutta quasi sempre al nero, di vecchie, vecchiette, vecchietti, persone che affittavano stanze a studenti. Ho fatto visita a colleghe studentesse in appartamenti tramezzati con il compensato, in cui erano infilate quasi con letti a castello, ragazze pugliesi, marchigiane, siciliane, che stanno lì pur di fare l'università in una città importante dal punto di vista del riconoscimento poi del titolo di studio, si ammassavano in queste stanze e poi naturalmente di cui nessuno pagava una lira di tasse. Oggi la situazione è ancora così, è ancora un'attività sommersa, un'attività riconosciuta, un'attività, come molti mi stanno scrivendo, che va a erodere altre attività. Mi scrive un'ascoltatrice che ha un albergo, dice sì, poi è sotto forma di stanze in affitto, in realtà creano clandestinamente delle vere e proprie attività alberghiere. Vediamo anche quanto questo sarà vero. 800240024. Annuncio di Martina, Bologna. Ciao, offro un'ampia singola in una graziosa casetta in zona Santa Viola, vicino l'Esselunga, l'ospedale, la fermata del 13, 81, 91, 87 e notturno 61. A pochissimo tempo dal centro, 10 minuti massimo. Si tratta di una stanza luminosa, mobiliata in una casa composta da cucina, ampio salotto e un'altra stanza, la mia. Affitto 300 euro al mese più 15 di spese condominiali, luce, acqua, che questo mese erano in tutto 20 euro, fastweb e gas bimestrale. Buongiorno Giulia. Buongiorno Gianluca. Giulia è un'ascoltatrice che ha immediatamente risposto via Facebook alla nostra domanda e ha una sua esperienza da raccontarci. Tu hai affittato una stanza di casa tua? Io faccio parte della categoria dei separati, diciamo, come dicevi tu prima, mi ero appena separata, avevo un bambino di un anno e mezzo, la casa aveva una stanza in più e quindi, insomma, per far fronte al dissesto economico immediato ho deciso di affittarla. Ho fatto una piccola selezione mettendo un annuncio su internet ed è arrivata questa persona ingombrante dal punto di vista fisico, perché era un'aspirante cantante lirica, ma era una ragazza molto gradevole, coi capelli lunghi, questi occhioni blu, e mi aveva immediatamente convinto. Per un po', insomma, i rapporti sono stati buoni, lei era molto carina anche con il bambino, paziente e così via. Poi a un certo punto ho cominciato a notare delle stranezze in questa persona. Intanto era l'unica cantante lirica che non cantava e questo un po' ti dava qualche sospetto. Mi insospettiva, non che mi sarebbe piaciuto avere una che gorgheggiava dalla mattina alla sera, per carità, però insomma qualche, almeno su invito, fammi sentire qualcosa, no, sono giù di voce. Diciamo che ti rassicurava il fatto di avere un artista in casa, ecco. Sì, poi era molto gradevole fisicamente, insomma, nonostante la stanza. E io avevo sempre lasciato totale privacy all'interno della camera, una volta che l'avevo affittata poi non ci avevo più messo piede. Ma lei poteva ricevere persone nella sua camera oppure, diciamo, c'era un vincolo? Questo vorrei capire, quando uno affitta una stanza in famiglia, è una stanza a tutti gli effetti come casa sua oppure naturalmente come quando si va in affitto dalle suore, c'è un'ora di rientro, un'ora di uscita, un divieto di ricevere in camera? No, non c'era nessunissimo divieto e la questione comunque non si è mai posta, perché altra cosa che mi aveva provocato un po' di inquietudine era veramente estremamente riservata. Lei rientrava dal lavoro e si chiudeva in camera e ne usciva per tornare al lavoro. Non usciva neanche per mangiare, tornava con il suo sacchettino di McDonald's piuttosto che del cinese, mangiava in camera e non si vedeva mai. Quindi io questo problema non l'ho mai avuto. Scusa, aveva una cassetta per i bisogni come i gatti, come funzionava? Andava in bagno solo quando io e mio figlio eravamo nell'altra stanza, te lo giuro. Beh, al massimo la discrezione, l'inquilino perfetto. Sì, salvo che a un certo punto mi mancava, mi pare, il tagliaunghie dal bagno, quindi insomma sono entrata in camera sua per vedere se per caso l'avesse preso per sbaglio o a prestito, insomma può succedere, e ho trovato il pavimento completamente coperto di spazzatura. E soprattutto la cosa più raccapricciante era che tutto il muro dietro alla testiera del letto era cosparso di zanzare morte spiazzicate. Di schizzi di sangue. Sì. E quindi? E da lì poi insomma i rapporti si sono un po' deteriorati, perché ho cominciato a farle presente determinate cose, e lei poi nel giro di 2 mesi tra l'altro ha perso anche il lavoro, quindi se n'è andata, insomma. Quindi era praticamente si celava una sorta di mostro dietro la apparente impeccabilità dell'inquilina. Sì, l'immagine che ti ho dato è questa, sì, è questo. Ecco, solo una cosa, visto che sei la prima ascoltatrice a telefonare, poi ce ne saranno altri. Dal punto di vista, diciamo, fiscale, come funziona? Soldi in mano e via, è una stretta di mano, oppure si registra questo tipo di inquilino? No, lei era registrata, come prevede la legge per la sicurezza, lei era registrata presso la questura come inquilina di casa, ma il pagamento era assolutamente a nero. Cash, benissimo. Grazie Giulia. Franco, dalla provincia di Vicenza. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche se sono a Milano, in tangenziale, mi sente? Certo. Se alza la voce, Milano-Roma si sente abbastanza. Sì, sì, praticamente io ho avuto una discussione proprio ieri sera con mia moglie, perché io vorrei affittare la stanza a un mio amico che si è separato. E invece mia moglie non la vuole sapere. Io direi che questo... Non ha tutti i torti, scusi. Lei vorrebbe portarsi un amico in casa. Non è proprio una cosa facile da mandare giù, avere un inquilino in casa, a meno che uno non sia spinto dal bisogno. Avete bisogno di affittare una stanza? No, no, no, non abbiamo bisogno, però a me fa pena il mio amico, cioè io è mio amico, e bene è che questo è amico anche suo, però tutto un tratto lei proprio prima di sapere che aveva bisogno di venire a abitare da noi, era un amico, adesso basta, adesso non lo vuole neanche più vedere, proprio si è offesa a morte, mi toccherà rompere le amicizie con questa persona purtroppo. Ma lei ci tiene più alla moglie o all'amico? Questo deve fare deve metterlo sul bilancio di entrambe le cose. Ci tengo più la moglie perché ho anche 2 figli, allora sì, più non moglie. Non so. No, dica all'amico che si trovi una stanza in affitto in un'altra parte. Ma l'amico nel caso pagherebbe oppure viene solo come ospite? Ma pagherebbe, ma proprio una sciocchezza, pagherebbe una sciocchezza, perché ha proprio di bisogno, poverino, si sta separando dalla moglie, anche molte difficoltà economicamente. Magari anche bisogno proprio... d'affetto, poverino, certo, lo capisco. Piuttosto... purtroppo mi tocca, non posso aiutarlo purtroppo, mi dispiace tantissimo, l'avrei fatto col cuore veramente. Sì, ma se sua moglie non se la sente, non può chiedere a sua moglie anche di occuparsi delle carenze affettive e abitative di un amico. Stia vicino all'amico, non mi sembra che sia proprio il caso. 800 24 00 24, quali sono le circostanze per cui voi affittereste una stanza di casa vostra? L'avete mai fatto? Vi piacerebbe farlo? Quanto in realtà fa svoltare il ménage quotidiano affittare una stanza? Annuncio di Camilla, Milano. Cerco una ragazza tranquilla e seria con cui dividere un bilocale, anche studente. Io sono fuori casa tutto il giorno, torno solo la sera. Disponibile posto letto in ampia camera doppia con armadio a 8 ante, casa di ringhiera, condominio, cortiletto interno dove è possibile lasciare bicicletta. Abbiamo al telefono da Londra Massimiliano Ciliberto. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Massimiliano Ciliberto rappresenta easystanza.it, che è il più grosso sito italiano dedicato alla ricerca e all'offerta di alloggi in condivisione. 30.000 annunci al mese di inquilini, soluzioni abitative disponibili in Italia, e ha un vasto mercato e possibilità di individuare quali sono le esigenze in questo campo. E Easystanza, diciamo, è l'azienda, l'istituzione che ha fatto questo sondaggio e che oggi ci ha dato l'idea di fare questa trasmissione. Ci riassume i dati di questa vostra ricerca, che fa pensare che in Italia sia nata questa nuova esigenza di avere una fonte di reddito aggiuntiva affittando una stanza in casa? Sì, Easystanza ha condotto un sondaggio su un campione di circa 1200 utenti del portale, e emergono fondamentalmente 2 dati molto interessanti da questo sondaggio. Il primo riguarda la motivazione per la quale una famiglia piuttosto che una persona singola affitta una stanza del proprio appartamento, e l'affitto costituisce un'entrata economica fondamentale, cioè non è un extra. Chi affitta diciamo ha proprio bisogno, sì, nella maggior parte dei casi, nel 25% dei casi è per riuscire a pagare il mutuo, mentre molto spesso si affitta per, come diceva lei prima, per sostenere delle spese di manutenzione o di riparazione dell'abitazione. Anche perché mi sembra, per quanto sia, è un onere psicologico abbastanza forte mettere un estraneo in casa. Se proprio uno non ne ha bisogno, è chiaro che ne fa meno volentieri. Sì, chiaramente sì, la convivenza, come noi ben sappiamo, non è facile. È qualcosa che forse in altri paesi, come nel Regno Unito, è pratica diffusa per una serie di... Ecco, lei che ha esperienza, diciamo, di altri paesi, visto che voi vi occupate non soltanto dell'Italia, come sono le abitudini nel resto dell'Europa? Per noi la casa è un sancta sanctorum inviolabile. Sì. Mi sembra che in altri paesi in realtà è molto più elastico il concetto. Sì, nei paesi del nord Europa, soprattutto il Regno Unito, Irlanda, paesi scandinavi, il concetto di coabitazione è molto più... è molto più elastico, come ecco, insomma, è più diffusa l'abitudine di affittare una parte dell'appartamento ad altre persone. E c'è anche una maggiore percentuale di lavoratori che sceglie di vivere in coabitazione piuttosto che in un appartamento per sé. E questa è una tendenza che abbiamo registrato anche in Italia. Ecco, vediamo un po' di fare qualche numero e qualche percentuale su questi 1200 utenti del vostro sondaggio. Il 70% ha dichiarato, mi sembra, che proprio questa è un'entrata fondamentale. Sì, è un'entrata fondamentale, sì. È un'entrata fondamentale senza la quale non riescono ad arrivare a fine mese. Nella maggior parte dei casi chi affitta è una famiglia, un singolo che ha acquistato casa anni fa e deve pagare il mutuo. Deve pagare il mutuo oppure deve ristrutturare o in alcuni casi ha perso il lavoro, quindi l'affitto l'affitto insomma che chiede sostituisce il... Ecco, diciamo che la risposta del pubblico in questo momento sembra confermare quelle che sono le vostre indicazioni. Sentiamo qualche ascoltatore. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Abbassi la radio, però abbassi la radio. Eccolo qua. Niente, anch'io volevo dire, nell'ambito di una separazione ho dovuto affittare una stanza, anzi all'inizio due, proprio grazie al servizio Easy Stanza sono riuscito a trovare dei coinquilini. È stata un'esperienza fra alti e bassi, ho avuto delle persone veramente straordinarie e alcune persone, ahimè, poco raccomandabili. Ecco, ma come funziona? Si affitta per un periodo di tempo determinato, un mese, due mesi, tre mesi, o per periodi più lunghi? Ma guardi, sono stati alcuni degli studenti universitari, quindi affittavano per il periodo, diciamo, degli studi. E alcuni sono stati dei lavoratori, per cui affittavano in realtà per tutto l'anno. Addirittura io ho un ragazzo che adesso è rimasto, nonostante io abbia una nuova compagna con cui condivido la casa, e ormai sono 3 anni che è con noi e condividiamo la casa. Quindi diciamo per lei ho mai superato il problema della privatezza, della propria vita personale, riesce a convivere anche con degli estranei? Sì, assolutamente, io ho sempre considerato una casa più un contenitore delle mie cose che il mio tempio, mettiamola così, e quindi non ho mai avuto questo grosso problema. Devo dire che il problema più grosso che ho avuto è stato un problema legal fiscale, perché non sono mai riuscito a trovare, neanche tramite un commercialista o l'ente studentesco universitario, un sistema legale per affittare una stanza che non fosse quella di diventare un affittacamere, e quindi con tutti i regolamenti del settore alberghiero e via così. Sentiamo se ci può aiutare Massimiliano Ciliberto. Vediamo dal punto di vista proprio normativo. Cosa occorre fare per affittare una stanza? Prendo una licenza di affittacamere? Ma per affittare una stanza, guardi, Easy Stanza è un portale che mette in comunicazione la domanda. Sì, poi voi non vi ponete il problema, questo è anche giusto, certo, chiaro. Sì, noi siamo, diciamo, un portale che mette in... Voi create il contatto, poi dopo perfetto. Naturalmente ognuno si organizza con la normativa come dovrebbe essere per legge. È chiaro che ci sono dei regolamenti, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista fiscale. Uno deve prendere una sorta, penso, di licenza per affittare le stanze. Non è che chiunque può affittare una stanza, a meno che ci sia una sorta di trattativa al nero privata, che però va contro quelle che sono, penso, le normative. Sentiamo Roberta. Roberta, buongiorno. Buongiorno. Beh, io volevo fare una, insomma, volevo dare un approccio psicologico, quasi psicanalitico del problema. Cioè, io credo che sia importante, insomma, citare la prossemica, che è il rapporto tra l'uomo e lo spazio. Oltre che il bisogno, insomma, di nutrizione, uno dei bisogni primari dell'uomo è quello di difendere il proprio territorio. E questo è profondamente radicato all'interno proprio del DNA di ciascun essere umano, questo ce lo dice la scienza. E quindi se una persona arriva a rinunciare a una parte del proprio territorio, del proprio spazio, significa che la motivazione economica è molto molto forte. Certo, piuttosto che andare a vivere sotto un ponte preferisce, esatto, rinunciare a una stanza, esatto, di casa propria. Cioè. Esatto, ma questa è, secondo me, veramente una considerazione importante da fare. Noi abbiamo, questo ce l'ha insegnato Desmond Morris tanti anni fa, abbiamo quello spazio intimo che è quello che qua lasciamo entrare soltanto le persone familiari o persone con le quali abbiamo una relazione di tipo affettivo. E poi c'è uno spazio che è quello sociale, che è di 3 o 4 metri, che è quello che manteniamo quando abbiamo una vita, insomma, all'esterno. Quando siamo, ecco, Roberta, ma lei non pensa che queste misure varino a seconda del luogo in cui noi produciamo la nostra esistenza? In certi paesi non c'è assolutamente questo problema. Esatto, varino secondo le culture, non il luogo, cioè secondo la cultura. Infatti in tutto il bacino del Mediterraneo questa vicinanza è, diciamo che si accorcia, si tocca di più perché c'è una maggior frequenza nel rapporto fico, e mentre invece più andiamo a nord più questa distanza è aumenta. Lei pensa che io provo un personale, sì, disagio nell'avvertire le presenze dei vicini in alcuni appartamenti con, sì, le pareti piuttosto sottili, si, ecco, sente c'è una presenza dall'altra, certo, parte, già questo per me, certo, mi crea, esatto, disagio. Esatto, esatto. Infatti la classica esempio è quello dell'ascensore, no? Quindi c'è un meccanismo umano per cui quando si è obbligati a stare in un contatto fisico molto molto ravvicinato come l'ascensore, scatta questo meccanismo in tutti gli uomini, questo provato, che li fa automaticamente diventare oggetti. Per cui noi, infatti, se lei nota, questo ce lo dimostrano dei test, non ci si riesce a guardare in volto. Quindi lei vuol dire è un sacrificio notevole, non è una cosa, esatto, indifferente. Esatto, e poi c'è la famosa teoria del riccio, no? Gli esseri umani non riescono a stare lontani, almeno troppo vicini, quindi questa soluzione è una sorta di compromesso tra questi due stili. Su questo l'avevo messo in considerazione, che in realtà è una rinuncia, si rinuncia a qualcosa, uno ristruttura casa e compra casa. Qualcosa di geneticamente però radicato, è questo che volevo dire, che non è una cosa così superficiale, quindi è un grande sacrificio. Grazie Roberta di questo ulteriore approfondimento, ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni della borsa. Quando si è connu, quando si è reconnu, perché se perde di vue, se reperde di vue, quando si è retrouvé, quando si è réchauffé, perché se separe? Melog 2.0. Dividiamo il bagno e la cucina, dividiamo le sedie fatte in Cina, ci chiediamo se una casa interinale ci fa bene o male. Conviviamo in magica simbiosi, conviviamo ma non siamo appiccicosi, indecisi tra la vita liceale e quella coniugale. Non confondere l'affitto con l'affetto, siamo uniti per pagare la bolletta, siamo nomadi. I condomini siamo clandestini, clandestini. 800 24 00 24, stiamo parlando della possibilità di affittare una stanza a casa propria, pratica che all'estero è molto diffusa, mi scrive un ascoltatore su Facebook, svegliatevi, in altre parti del mondo è una cosa molto molto diffusa, non vi meravigliate, ma non ci meravigliamo, semplicemente stiamo osservando che uno degli aspetti della crisi è il fatto che le persone affittino una stanza di casa propria. Come ci diceva un'ascoltatrice, è un grosso sacrificio dal punto di vista psicologico condividere uno spazio, soprattutto le nostre latitudini, data la sacralità che diamo al nostro spazio domestico. Mi mandano la foto di un cartello fotografato in un condominio italiano, affittasi casa, chiedere alla signora di sotto, la fa vedere a tutti. Il solito Umarell che scrive questi fantomatici e deliranti cartelli. Qualcuno mi chiedeva come regolarsi da un punto di vista amministrativo, mi sono informato durante la pausa, affittare una stanza a casa propria è equiparabile a un contratto di affitto, uno dà una stanza con uso comune di bagno e cucina, senza nessun servizio, senza nessun'altra prestazione, deve sottoscrivere appunto un regolare contratto di locazione a uso abitazione. il contratto da affittacamere è un'attività equiparabile a un'attività quasi alberghiera, un altro tipo di lavoro. Allora a questo punto uno decide di aprire un'attività e fa l'affittacamere e deve regolare, penso, anche alcuni servizi oltre alla stanza. Poi ci sono i bed and breakfast, poi ci sono gli appartamenti vacanze, tutto, entriamo in un altro campo. Noi vogliamo circoscrivere semplicemente la nostra osservazione a chi affitta una stanza per bisogno. Ci dice Esistanza, che è un portale che mette in comunicazione appunto varie persone che hanno stanze da affittare o cercano stanze, che è un'attività che sta crescendo moltissimo, soprattutto in tempo di crisi, e sta crescendo perché gli italiani hanno bisogno di quel denaro, non perché vogliano arrotondare o avere un reddito ulteriore, perché hanno bisogno di quei soldi. Quei soldi mancano alla gestione quotidiana del loro menage. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare la mia vicenda personale. Circa 10 anni fa c'erano ancora le lire, quella che era mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie, equatoriana, viveva in una casa, un quadrilocale, con una signora che era una vedova e affittava debitamente in nero a altri connazionali le sue stanze. Lei pagava 1 milione di lire, aveva una stanza affittata senza finestre con una coppia, mia moglie, quella che è diventata mia moglie, con 2 fratelli facevano 5, e nel suo letto divideva il letto con un'altra persona che era sola, una donna sola, e quindi praticamente il suo 1 milione di lire che pagava di affitto era debitamente ben coperto dai soldi, perché ognuno pagava 150.000 lire. Quindi era un subaffitto praticamente. Sì, sì, era un subaffitto clandestino che però a lei permetteva di sopravvivere, perché pagava questa casa 1 milione di lire, che era tantissima all'epoca, e le spese debitamente ben divise quota parte, quindi luce, gas e tutto condiviso. E questa, per me che ero italiano all'epoca, era una cosa un po', diciamo, sai, io ero ventenne, tutto era un po' il boom appena arrivato, questo fenomeno dell'immigrazione, così, e la vedevo come una cosa sconvolgente per il mio modo di vivere. Beh, qua entriamo anche in un altro campo altrettanto interessante, ma non proprio assimilabile a quello di cui stiamo parlando. È una sorta di speculazione di un bisogno di abitazione a parte di persone che non sempre sono nemmeno regolari dal punto di vista dei loro documenti, e quindi ci se ne approfitta molto. Possiamo anche approfondire questo argomento, ma è un altro campo. Michela invece. Michela, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, l'ascolto sempre, è sempre molto interessante. Ecco, parliamo del problema di oggi però, che sì, mi sembra interessante. Allora semplicemente questo: noi abbiamo ristrutturato un appartamento che è intestato parzialmente a mia figlia, 24enne, che studia medicina, la quale ha affittato 2 stanze di questa casa, altrettanti studenti, quindi con contratti regolari, così come stava spiegando adesso, sono contratti che si trovano già pronti, diciamo, come prestampato, addirittura da buffetti, tanto per dare un riferimento alle persone, e lei con questo si mantiene, noi ovviamente continuiamo a pagarle gli studi come quando stava a casa con noi, ma a 24 anni è riuscita a darsi un'indipendenza economica che altrimenti prima dei 30 non avrebbe mai avuto. Lei vive dei suoi affitti e poi noi, come dire, la sosteniamo nel percorso di studi come prima, ecco. Quindi diciamo è un'integrazione della casa che i genitori hanno acquistato, in parte però se ne suddivide gli oneri. Sì, diciamo che se la mantiene a tutti gli effetti, nel senso che lei paga grazie a questi due affitti, a queste due entrate trasparenti su cui paga peraltro anche le tasse, si mantiene la sua vita quotidiana, paga l'amministrazione, quindi non pesa su di noi in alcun modo, è come se stesse, diciamo, addirittura spendiamo meno di quando l'avevamo a casa con noi, ecco. E mi sembra che per i giovani questa sia una formula molto, molto normale, cioè non, sì, diciamo non che per noi. Per uno studente è più sopportabile, fa parte anche degli aspetti folcloristici e indimenticabili la vita studentessa, studentesca, la convivenza con altri coetanei. Quando una famiglia già costituita, con figli, con articolazioni e abitudini di vita, come ci diceva prima un'ascoltatrice, è più oneroso da un punto di vista psicologico. Gianna, buongiorno. Buongiorno. La mia è un'esperienza un po' particolare. Io ho una casa col giardino e e il mio appartamento ha vicino un'altra stanza con bagno, con ingresso, diciamo, nel mio giardino, però si può accedere a questa stanza da un ingresso indipendente. E a me un ragazzo aveva chiesto se potevo dargli questa stanza. A me avrebbe fatto comodo in cambio di un aiuto il fine settimana, naturalmente quando era possibile, nel giardino, perché è un giardino grande, io incomincio ad avere una certa età. Quindi lei cercava un giardiniere che avrebbe dato... No, non un giardiniere, un aiuto per lavori, diciamo così, un pochino più, che ne so, io mi trasporto da solo. Un uomo di fatica? Ma no, ecco, siccome questi lavori li faccio io, non mi considero una donna di fatica. Diciamo. Ma la cosa le serviva? Ecco, io questo ragazzo era ben felice, se non che mi dice dovrebbe parlare con il mio avvocato. Io sono andata da questo avvocato, morale, questo ragazzo era in carcere. Gli erano stati concessi gli arresti domiciliari e l'avvocato mi aveva assicurato che era un bravo ragazzo, che aveva fatto una stupidaggine e che se non gli si dava un'opportunità, io ben felice di dare l'opportunità a questo ragazzo. Anche perché almeno aveva la sicurezza che non usciva di casa, lì rimaneva. Dunque no, lui sarebbe uscito al mattino per andare a lavorare e sarebbe rientrato alla sera. Perciò dicevo, va bene, ero contenta di dare la possibilità a un ragazzo di riabilitarsi, perché se no, dico, se nessuno lo aiuta questo ragazzo, cosa farà? Andrà avanti a fare, a rubare. Certo, lei ha fatto, diciamo, oltre, diciamo, aver risolto il suo problema di avere un aiuto in casa, l'ha fatto anche un'opera buona. E com'è andata a finire? È stato un disastro, perché lui, dunque, innanzitutto l'avvocato non gli ha procurato subito il lavoro, perciò era sempre in casa. L'aiuto, te lo raccomando, poi io non è che andavo lì a chiedere, senti, mi porti una carriola di legna che ho bisogno e così, non è nelle mie abitudini, non sono capace di fare queste cose. Quindi non faceva nulla praticamente? Praticamente non faceva nulla, ma peggio, la cosa peggiore è stata che lui ha fatto entrare a mia insaputa la sua ragazza. Perciò c'era anche la ragazza, io difatti vedevo questa stanza. Fissa in casa, rimaneva anche la ragazza in casa fissa? È fissa, stava magari due giorni, poi se ne andava, io neanche mi accorgevo, quando mi accorgevo se ne andava, poi tutte le notti, questo non lo sapevo, sì, venivano i carabinieri a fare i controlli. Beh, quello è logico, se sarà il domicilio. Cosa vuole? Io non... Per me era un'esperienza completamente nuova. Comunque lui ha incominciato dopo a minacciarmi, ha detto guarda, la ragazza non la voglio assolutamente, qui ci stai tu, punto e a capo, e se vai a lavorare bene, se no io non ti posso tenere qui e mantenere, gli davo anche da mangiare. Ma in cambio cosa gliene veniva lei? Tanti fastidi, tutte le notti dovevo alzarmi per i carabinieri che arrivavano. Ai carabinieri venivano a controllare che lui fosse in casa e lei doveva andare a aprire naturalmente. Sì, al che alla fine sono riuscita a... Così lui nemmeno veniva svegliato naturalmente, lui dormiva tranquillo, lei firmava... No, dovevo svegliarlo io. Ah. Lo svegliavo, allora i carabinieri entravano in questa stanza e controllavano, lui era lì e buonanotte. E se c'era la ragazza la metteva in un armadio, come funzionava? No, la ragazza, quando veniva, non controllavano la ragazza, io poi ho protestato per questa ragazza con l'avvocato, con lui, tutto e di più, e non riuscivo a disfarmi. Beh, se ne è liberata alla fine. Ah sì, ma a caro prezzo. Lui è stato riportato in carcere. Quando è uscito dal carcere, l'avvocato non mi ha detto che, quando è andato dall'avvocato, ha detto, quando uscirò dal carcere mi ricorderò di lei e della signora che mi ha ospitato. Cioè la minacciata di morte, una cosa del genere? Beh, senta, infatti lui mi aveva minacciata, ha detto... Si è movimentata la vita, ha un episodio da raccontare, sì, non è stata una bella esperienza, però vedi, ha un momento epico della sua vita, ha avuto il galeotto dentro casa con la fidanzata, consumava illecitamente atti d'amore, tutte le notti venivano i poliziotti a svegliarla, quindi aveva anche un motivo di esistenza, quindi lo racconta, vedo, con interesse, quindi tutto sommato ha avuto un senso anche questo. Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Annuncio di Manuela, Napoli. Ciao, sono una studentessa di ingegneria. Vivo in un appartamento a meno di 5 minuti a piedi dalla facoltà di ingegneria di Piazzale Tecchio e sto cercando coinquilini. È disponibile un posto letto in camera doppia. L'appartamento è in ottimo stato e provvisto di telefono, internet, wifi, lavatrice, impianto di riscaldamento autonomo e all'entrata del palazzo c'è il portiere. 800240024, stanze in affitto contro la crisi. Questo è il sondaggio fatto da Esistanza su 1200 utenti del loro portale, che mette in comunicazione appunto persone che cercano stanze in affitto. È venuto fuori che gli italiani, di fronte al momento di crisi, hanno pensato bene che affittare una stanza di casa in fondo è un sacrificio sopportabile per un rientro economico che permette di far quadrare i conti. Abbiamo al telefono Massimiliano Ciliberto della Esistanza, manager dell'Esistanza. Vediamo se riesce a aggiungere qualcosa a seguito delle telefonate che abbiamo avuto rispetto ai dati che abbiamo già messo insieme. Ad esempio, l'esperienza sfortunata dell'ultima signora che ha preso in casa. Sfortunata. Ecco, questo diciamo ci si può salvaguardare rispetto a chi ci si mette in casa in maniera preventiva. Guardi, direi che sono casi estremi quelli che abbiamo sentito. Insomma, la maggior parte delle coabitazioni alla fine basta un po' di tolleranza, basta un po' venirsi incontro, insomma, sì. Quindi sono. Voi date delle garanzie sulle persone, diciamo, che mettete in contatto? No, noi non diamo garanzie, noi mettiamo in contatto chi ha una stanza, una camera da affittare e chi vuole affittarla. Quello che facciamo, noi controlliamo gli annunci, controlliamo che siano veritieri, che ci siano delle persone reali dietro, però non possiamo ovviamente garantire che la condivisione insomma andrà a buon fine. Ecco, c'è qualcos'altro rispetto a questo vostro sondaggio che può essere interessante alla fine di allargare un po' il nostro discorso, a parte il fatto che c'è un reale bisogno, quindi voi avete visto che in realtà è cresciuta questa richiesta a disposizione stanze in questo momento particolare? È cresciuta anche insomma in vista della reintroduzione dell'ICI, immagino, insomma, chi aveva acquistato casa tempo fa e non aveva ancora insomma nessuna tassa da pagare si ritroverà ben presto con un'ulteriore tassa da pagare. Questa è un'ulteriore motivazione a usare la casa diciamo come metodo di guadagno. Ecco. Quindi la casa diventa anche un bene che deve comunque dare dei frutti oltre ad essere un bene ovviamente, di conforto. Sì. Questo è chiaro. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Ecco, anch'io sono di quelle che dopo aver bucato due ruote della macchina, aver scoperto quanto costa, ho detto devo trovare una soluzione perché non mi va di lasciare un quarto dello stipendio così. E quindi ho anche una stanza in affitto a Milano e sì, dal caso che però la stanza coincida con tutta la mia casa perché è un monolocale. E quindi e cosa affitta il monolocale? Affitto tutto, io esco di casa, faccio la mia valigia. E va a dormire in macchina? Torno a casa dei miei genitori il weekend, per esempio, oppure mi organizzo con dei viaggi di lavoro e affitto tutta la stanza. Tutta ma la l'affitta casa. Ore, come funziona? Se lei l'affitta No, a giorni. Ah, per fine settimana. Fine settimana e magari se hanno bisogno di un giorno in più mi invento qualcosa, un viaggio di lavoro, una roba e via, tutta la casa. E devo dire che con gli stranieri mi è sempre andata bene. Ecco, ma come funziona? Ci si mette in un circuito, si mette in rete l'annuncio? Qual è la maniera migliore? Sì, ho messo in rete l'annuncio e mi sono veramente affidata al buon cuore delle persone. Il buon cuore? Lei dà un servizio, mica le fanno una carità. Lei no, dà un però servizio. Io non posso sapere in che condizioni mi lasciano la casa, ovviamente, perché io lascio tutto. E non c'ha nessuna garanzia lei? In teoria questo sito da poco tempo, però prima che io iniziassi ha fatto una garanzia di 50.000 euro in caso di cose, però quando io ho iniziato non c'era ancora questo tipo di garanzia. Quindi io l'unica cosa che ho potuto dire, vabbè, la mia ovviamente è una casa molto semplice, cioè grandissimi danni, grandissimi furti, no? Io però ho lasciato tutto, i miei CD, i miei libri, le mie foto. E ha sempre trovato tutto a posto? Meglio di quando ho ospitato degli amici, cioè mi hanno buttato via la spazzatura, mi hanno rifatto il letto, pulito tutti i piatti. E quindi evidentemente chi la mette in contatto con gli eventuali affittuari ha una maniera di selezionare il pubblico. Guarda che molti stranieri molto abituati a questo tipo, sì, diciamo, sono perfetti da questo punto di vista. Perfettissimi, puntuali, cioè io li incontro, li ricevo io, ma poi ho fatto tutto a questo punto, mi sono veramente trasformata in una guest. E gli ho fatto tutta una, gli la faccio trovare tutto, dalla colazione, le piantine per girare per Milano, gli dico dove sono i ristorantini carini, dove sono le cose. Ha un nome questo particolare tipo di servizio? Sì, ce ne sono diversi in rete adesso. No, ma il nome in particolare non è un... Beh, è un B&B, è assimilabile a un bed and breakfast. Ah, quindi, ma lei, tu prendi una licenza per fare questo? Io sto pensando di farlo. Ma ultima cosa, le tasse le paga su quello che prende? Dovrei pagarle. Ah, dovrebbe pagarle, quindi magari. Però è bene che ci pensi. Però sono ancora in tempo. Sì, sì, certo, fa ancora in tempo. Speriamo che lo faccia. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno chiamato, e sarebbero anche tantissime altre telefonate. Vedo che il problema è reale, percepibile e palpitante, quindi ci è piaciuto toccarlo. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.